carroni? Che dice il cavalier? Prego. Insistiamo! Lo vedremo, signora! Dunque, per compiacervi, si dovrebbe mentire! No, ma il vero potrebbe abbreviare l'ora, sai, penosa! Chissà d'impia la legge! Oddio! A mani piedi il vostro amante un cerchio tirato alle tempia che ad ogni niego mi sprizza sangue senza vento. Quella prova, provedi, ripigliamo! Sofia! Oh, no, no, no, no, no, no. Là, è l'Angelotti? Sì. Basta, Roberti. È svenuto. Assassino! Voglio vederlo. Portatelo qui. Thank you. flagrante. Oh,

pronto. Vieni a mente, al primo colpo, giù. Giù. Vivrio le sorti, anzi che io ti chiami. No, amore. Cadi bene. Come la Tosca in teatro. Non ridere. Così. Così. Yeah!